Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, questa sera ci facciamo portare alle pendici dell'Etna, in un territorio in cui la città e tutte le attività umane devono confrontarsi con delle forze che ridisegnano continuamente il paesaggio e alle quali ci si può solo tentare di adattare. Parliamo della continua attività tettonica naturalmente presente nell'area e in particolare ci riferiamo alla presenza di faglie, delle profonde fratture nel terreno i cui lembi, i cui bordi si spostano trascinando tutto ciò che si trova in superficie, case, edifici, ponti, quant'altro. Tenere conto di questi fenomeni è cruciale nella pianificazione territoriale, ovvero nel momento in cui si decide come e dove si può costruire. Per questa ragione i ricercatori dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno messo a punto un progetto pilota, un database di dati GIS, cioè georeferenziati, che riportano appunto le faglie attive del monte Etna. Si tratta di uno strumento per valutazione del rischio geologico che ha una peculiarità, perché queste faglie e tutta una serie di informazioni possono essere visualizzate da chiunque su Google Earth. Ne parliamo di questa iniziativa con Marco Neri, vulcanologo, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Buonasera Neri. Buonasera a voi. Allora Neri, ci ricordi rapidamente che cos'è una faglia? Beh, una faglia, come ha ben detto lei, accennato lei in premessa, è una frattura della crosta i cui lembi si muovono con direzioni opposte. Queste faglie si possono generare dei terremoti, che tutti conoscono, e a volte però si muovono per creep asismico, ovvero si muovono pur non provocando terremoti. In entrambi i casi però sono estremamente pericolose, perché i terremoti, come sappiamo, fanno crollare le case. Benissimo. Lo scorrimento invece, lo scorrimento di una faglia, se c'è un manufatto che è costruito sopra di essa, la taglia in due, insomma. Il terremoto avviene quando una faglia accumula tensione, non riesce a muoversi, improvvisamente scatta, mentre esatto. Queste faglie si muovono un po' alla volta, ma se c'è sopra una casa viene letteralmente segata in due. Beh sì, in particolare nell'Etna questo è un fenomeno un po' più accentuato. L'Etna è uno dei vulcani attivi più attivi al mondo e ha anche la peculiarità che il suo fianco orientale si muove, collassa lentamente verso il mare. Di pochi centimetri, la gente non si rende conto di questi movimenti, però questi movimenti avvengono appunto lungo segmenti di faglia che si muovono per creep asismico. Siccome queste faglie attraversano in alcuni casi intere città, ecco che il problema da noi nel meridione dell'Italia, in Sicilia insomma, ma soprattutto nell'Etna, diventa un problema serio da attenzionare con particolare dettaglio. Attenzione appunto, anche perché alcune di queste faglie, ricordiamoci, cioè noi abbiamo in mente magari la faglia di Sant'Andreas, che è uno squarcio abbastanza spettacolare, a volte invece non si vedono nemmeno, no? Questo è uno dei motivi per cui è importante, come dire, segnalarle su qualche mappa. Esatto, perché non tutti i piani di faglia che si muovono, sia quelli sismogenetici che quelli che si muovono per creep asismico, arrivano in superficie. Quindi la gente magari non si rende conto di abitare in una zona pericolosa da questo punto di vista, se non c'è qualcuno che glielo dice ovviamente. E di conseguenza magari, soprattutto per i segmenti di faglia asismici, cioè quelli che non si muovono per terremoti, le case che sono costruite su questi segmenti si vedono ammalorare, si vedono danneggiare progressivamente. Negli anni distruggere, la gente non capisce perché. Ed è per questo, anche per questo, che noi abbiamo deciso di tradurre una parte del nostro lavoro scientifico pubblicato su una rivista cartacea, sì. Abbiamo deciso di tradurlo anche in un elemento consultabile da chiunque attraverso un computer. Ma questo chiunque chi potrebbe essere? Proviamo a fare qualche esempio, oltre al geologo naturalmente. Sì. Abbiamo almeno due canali, diciamo così, di potenziali utenti. Sicuramente quelli, i colleghi come noi, che in ambito scientifico studiano le stesse fenomenologie, ma soprattutto, mi permetto di dire, comuni cittadini, oppure sindaci, oppure chi è deputato alla pianificazione del territorio, come gli addetti del genio civile o dei comuni, delle province, perché loro, cliccando sopra appunto questi elementi strutturali, si rendono conto del grado di deformazione di quel segmento tettonico, di quanto si muove, di perché si muove, se è connesso con l'attività eruttiva oppure no, cioè tutta una serie di informazioni che sono, diciamo, a portata di click, e ecco. Che una persona che deve pianificare il territorio trova grande giovamento. Ecco, perché poi diciamo che i professionisti sanno dove andare a reperire le informazioni, perché tutte le faglie sismogenetiche l'INGV le ha mappate a suo tempo e ha reso disponibili le informazioni. Quindi se qualcuno che fa quel mestiere non si preoccupa di queste informazioni, lo fa colpevolmente, non ci sono molti dubbi. Sì, ma però con per il non strumento si potrebbe essere, diciamo, aiutato a non scordarsi. Ok. Quindi, insomma, uno strumento che consente anche un minimo di capacità di controllo ai privati cittadini e agli amministratori, ma comunque soprattutto proprio uno strumento per addetti ai lavori. C'è dentro un contenuto informativo in questa banca dati che non si trova in altre banche dati analoghe, perché non è il primo caso in cui si disegnano delle faglie con un software, ecco, insomma. Assolutamente vero quello che dice. Diciamo che in questo caso noi abbiamo fatto uno sforzo di sintesi ad uso e consumo soprattutto dei professionisti geologi e ingegneri che si trovano in un unico elemento cartografico rappresentato su Google Earth tutta una serie di informazioni che fino a un mese fa erano disperse in una miriade di piccoli o grandi pubblicazioni scientifiche o carte, a volte anche che si contraddicono l'uno con l'altro. Noi abbiamo fatto la sintesi e la proiezione di questa sintesi sul GIS, che rende di facile accesso e di facile utilizzo tutto il sapere che in questo momento, ad oggi, è contenuto nella nostra, diciamo, banca dati scientifica. Peraltro è una banca dati aperta ai contributi del futuro, non è una banca dati statica, proprio per la natura di software con cui è stata costruita, consente l'immissione di ulteriori dati laddove domani si scoprisse un altro segmento di faglia, oppure di un altro vulcano, per esempio, magari sullo Stromboli si potrebbe fare lo stesso lavoro. Adesso dico una cosa a caso, non da geofisico. Grazie, certo, Marco Neri. Prego, grazie a voi. Insomma, un nuovo ulteriore strumento di pianificazione territoriale, certo destinato a delle aree molto particolari, le aree vulcaniche. Prima di lasciarvi vi ricordo che potete segnalare iniziative, contattarci a smartcity@radio24.it, potete rintracciarmi anche su Facebook, mi trovate come Maurizio Melis. Noi ci fermiamo qui, a voi tutti buona serata.